Dialogo secondo. Raccontò Muaz bin Jabal: un giorno, mentre ero in compagnia dell'apostolo di Allah, gli chiesi: o apostolo di Allah, che devo fare per andare in paradiso e avere scampo dal fuoco dell'inferno? Mi rispose: hai detto niente. Sappi comunque che quello che si deve fare è facile per colui al quale Allah lo rende facile. Devi adorare Allah e non attribuirgli condomini nella sua qualità divina. Esegui le 5 devozioni quotidiane, paga l'imposta coranica, digiuna nel mese di Ramadan e va in pellegrinaggio alla casa. Poi aggiunse: vuoi che ti dica quali sono le porte del paradiso? Il digiuno. Esso è uno scudo contro la tentazione. La beneficenza. Essa spegne i peccati come l'acqua spegne il fuoco. La devozione supererogatoria, eseguita nel cuore della notte. Poi recitò: nessuno sa quale immenso gaudio è stato riservato per quello che da vivi solevano fare a coloro i quali, dimenticati i loro letti, piangono in timore e speranza, adorando Allah e prelevando da quanto abbiamo loro elargito, spendono in beneficenza. Poi mi chiese: vuoi che ti dica che cos'è la cosa più importante della vita? La colonna portante di questa cosa è il punto più alto della sua gobba? Risposi: sì, o apostolo di Allah. Disse: la cosa più importante della vita è l'Islam. La colonna portante dell'Islam è la devozione quotidiana obbligatoria. E il punto più alto della sua gobba è lo sforzo perché la parola di Allah sia la più alta. Poi soggiunse: e vuoi sapere che cosa devi fare per non rendere vani i benefici della tua devozione? Risposi: sì, o apostolo di Allah. Prese allora la punta della sua lingua fra l'indice e il pollice e, dopo averla agitata un po' e lasciatala andare, disse: tienila freno! Allora io chiesi: o apostolo di Allah, ciò che diciamo sarà messo a nostro carico? Esclamò: o Muaz, non t'avesse mai fatto nascere tua madre. Poi soggiunse: che altro, se non il raccolto di ciò che le loro lingue hanno seminato, fa precipitare gli uomini a testa in giù nell'inferno?